Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, le borse tutte positive, incoraggiate anche in parte da Wall Street, più 0,80% l'America in questo momento. Questa sera ci sarà anche la riunione della Banca Centrale Americana, ci sono dei dati positivi dall'America sulle vendite al dettaglio, dati positivi in Europa. Per quello che riguarda la Germania, l'indice tedesco ZEV, quello che misura la fiducia degli investitori, infatti è salito per il quarto mese consecutivo. Questo, ma anche per esempio nel caso italiano, il buon andamento dell'asta dei nostri bot fanno sì che tutte le borse stiano salendo in media 1,5% percentuale, che è il caso di Parigi, l'1,30 è il rialzo di Francoforte, lo 0,90 di Londra. Milano è la migliore, più 1,80%, con titoli tra cui Tolz più 7%, Buzzi Unicem più 6,5%, Finmeccanica più 5,70 come Pirelli, Autogrill più 5%, Banco Popolare più 4,80, Intesa San Paolo più 3,5 come Mediaset e Unicredit, Popolare Emilia Romagna più 3,20 come Mediobanca, Adiassor in più 2,70, Exor più 2,5. Chiudiamo con chi guadagna più del 2%, ossia Mediolanum e la Popolare di Milano. Di negativo non c'è nulla, qualche rialzo su Parmalat meno 0,80%, Monte dei Paschi invariata e anche Campari invariata dopo il calo di ieri conseguente alla pubblicazione dei dati, che vedeva un aumento del dividendo ma è inferiore evidentemente alle attese. L'euro a quota 1,3107, quindi sostanzialmente è stabile. Di cosa parleremo oggi? Beh, delle parole da un lato di Mario Draghi, che sono state cautamente ottimiste, e anche questo è servito alle borse. Draghi infatti ha detto che c'è una situazione di stabilizzazione nell'area euro, segni chiari e continui di stabilizzazione, anche se vi sono livelli deboli di attività. E adesso ha detto che dopo l'intervento della Banca Centrale Europea, cioè 1.000 miliardi prestati alle banche europee, tutte, comprese le tedesche, a un tasso dell'1% per 3 anni, adesso tocca ai governi fare il loro lavoro. Ma sui fondi che la Banca Centrale Europea ha dato alle banche, ha detto, adesso sono più accessibili alle famiglie e alle piccole imprese. Speriamo che questo poi venga anche registrato dalle famiglie e dalle piccole imprese. Per quello che riguarda la benzina, ne parleremo nella seconda ora del programma. Qui siamo nuovi record, ma soprattutto facciamo poi un piccolo approfondimento, visto che ieri abbiamo dato l'apertura proprio al tema dei consumi, delle spese alimentari, bevande, tabacchi, tornati indietro di 30 anni secondo il rapporto di Banca Intesa che ieri abbiamo illustrato. 30 anni fa però la benzina costava meno, perché nel 77 vi fu il record storico, però che vorrebbe dire attualmente 1,856 euro, battuto visto che siamo oggi a 1,874 euro, ma alcuni di voi ci scrivono che in alcune pompe nel paese si paga a 1,95 euro già la benzina. Ma soprattutto nel 1980 un litro di super costava invece che 850, costava sostanzialmente 850 lire, il che vuol dire che aggiornati con l'inflazione equivalgono a 1,540 euro di oggi contro 1,874 euro che si pagano realmente. Non è una differenza da poco. Il diesel, è vero che c'era il super bollo che durò fino al 97, però il diesel allora costava la metà rispetto adesso, cioè 69 centesimi, anzi meno della metà, quasi un terzo rispetto adesso, 69 centesimi. E poi un dato su tutti che la dice lunga, cioè il consumo di gas, luce ed acqua quindi quello che è la spesa più grande per le famiglie italiane, nel riuscire appunto a portare a casa poi la pagnotta e mettere assieme il pranzo con la cena. Beh, pensate che il dato è abbastanza sorprendente, e cioè negli anni 80, visto che il riferimento viene fatto agli anni 80, noi per gas, acqua, luce, carburanti e affitti pagavamo come famiglia italiana, cioè incidevano sul peso delle famiglie italiane per circa il 25%, un quarto della spesa. Adesso gas, acqua, luce, carburante, mutuo e quindi spese per la casa pesano sui bilanci familiari per il 40%, che è una differenza non da poco, cioè siamo a quasi la metà dell'intera spesa, mentre prima si era a un quarto. Questo lo dico perché, siccome poi spesso il tema riguarda i consumi latenti nel nostro paese, c'è poco da consumare quando hai una pressione così alta. Poi c'è il balletto, ossia l'Unione Petrolifera dice: attenzione, la nostra benzina è la più cara per effetto della tassazione. Sono cresciuti quest'anno il prezzo della benzina di circa 20 centesimi per via della tassazione e 23 centesimi sul gasolio. Ma invece la Federazione Gestione Impianti di Carburanti Affini, la FEGICA, che sarà nostro ospite nella seconda ora del programma, dice: attenzione, le compagnie petrolifere fanno le furbe, alzano i prezzi alle stelle e poi offrono sul mercato allettanti sconti al self-service in modo da attirare i più automobilisti possibile, con lo specchietto dell'allodole delle maxi offerte, un po' come quando certi negozianti mettono i saldi, poi si scopre che il saldo non fa altro che riportare al prezzo originario il prezzo del bene. Insomma, la polemica resta, quello che è sicuro è l'impoverimento del potere d'acquisto delle famiglie italiane. 349-238-6666 per i vostri sms, rapidamente le altre notizie in breve. Vedo già molti messaggi sul tema. Adesso in apertura parleremo di altro, cioè parleremo della visita di Angela Merkel, ma soprattutto anche dei temi europei, cioè il vertice Ecofin, via libera al piano europeo, blocco ai fondi dell'Ungheria. Alcuni suggeriscono il Totò famoso, viste le difficoltà nella spesa degli italiani, quanto pesano affitto, benzina, gas, luce ed acqua. Vabbè, dai, facciamolo sentire. Una bella cenetta gustosa e succolenta. Beh, mi ordini. Antipasto. Caviale e salmone. Caviale e salmone. Oh, poi un bel consumé ristretto, molto ristretto. Etto. Dentro un uovo. Un uovo? Un uovo, è poco. Sì, metti due uova. Uova. Due uova. Oh, Battista, dimmi un po', dimmi la verità. A pesce, come stiamo? Male. Lo so. E sa, non è stagione. È temporale, eccetera, eccetera. Beh, allora questo pesce me lo sostituisci col pollo. Pollo. Hai capito? Il pollo, patatine fitte, con due patatine fitte. Pisolini di stagione. E formaggio. Come formaggio? Gruyère. Gruyère, autentica, resta autentica. Vizzera, sì, vizzera. Ma poi porti un po' di dolce. Che dolce? Cancaramello. Frutta? Esotica. Ananas. Tutto questo io lo voglio innaffiare una bella bottiglia di champagne ghiacciata. Champagne francese. Francese, piper. Portami una bella piper, va. E i soldi? Quali soldi? I soldi. Guardate che cosa? Hai comprato tutta questa roba? Oh, ma insomma, allora è un'abitudine che hai preso. È una maraviglia. E tu ogni volta mi chiedi i soldi. Ma insomma, allora, io ti ho messo su un piedistallo, Allora non ci vuoi stare sul piedistallo che ti ho messo? Scusa, anticipa tu, cosa vuoi da me? E io non c'ho un centesimo, signor Barone. Come c'ho un centesimo? Non c'ho un centesimo. E allora che mangio questa sera? Sì, la solita mortadella. Sono 6 mesi che mangio mortadella. Eccola qua, signor Barone. A cui si somma anche il dato di oggi sull'inflazione. L'Istat ha confermato a febbraio è risalita al 3,3%. In realtà siamo in un periodo per molti versi di deflazione. I prezzi non crescono, in alcuni casi calano. Questa inflazione è tutta un'inflazione, o quasi tutta un'inflazione importata, cioè è dovuta all'alto prezzo del petrolio e all'alto prezzo di benzina e gasolio. Tant'è che la media fa più 3,3% a febbraio rispetto a febbraio del 2011 come aumento dei prezzi al consumo. Ma se si va a guardare quanto sono cresciuti benzina e gasolio, si capisce che il grosso lo fanno loro e che alcuni settori invece sono in deflazione. Benzina più 18,6% in un anno, gasolio più 25% in un anno, un quarto in più. Il governo intende fare qualcosa su questo, sulle accise, soprattutto sull'IVA, visto che guadagna più di quanto non si attendesse? Orecchie da mercante, orecchie da petroliere in questi casi. Nel frattempo il carrello della spesa, quindi i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza dal cibo ai carburanti, è salito al 4,5% e siamo alla crescita dei prezzi, quindi all'inflazione più alta nelle spese più frequenti dall'ottobre del 2008. E poi la Corte dei Conti che sta facendo molto discutere. Nel frattempo vedo che l'indice di New York ha toccato i massimi da 4 anni, lo Standard & Poor's 500, ai massimi dal giugno del 2008. Siamo in questo momento ha toccato i 1377 punti, appunto il massimo dal giugno del 2008. Ma andiamo avanti, dicevo, fanno discutere le parole di due personaggi che rappresentano le istituzioni. Iniziamo dal Presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, che ha detto: attenzione, un fisco oltre il 45% è un livello che ha pochi confronti nel mondo quando si applica ai cittadini contribuenti fedeli, e quindi, lasciatemelo dire, tutti i lavoratori dipendenti, non solo loro, ma loro per forza, che siano manager o che siano impiegati o segretari o operai, poco cambia, quelli che hanno la trattenuta alla fonte e tutti gli altri contribuenti fedeli, non quelli che stiamo scoprendo in giro per l'Italia con le perquisizioni della Guardia di Finanza. Sentiamo Giampaolino al microfono della nostra Alessandra Schepsi. I punti chiave di questa relazione sono che il contenimento della spesa è uno dei principali momenti anche ai fini della crescita, che è appunto quello che finora la Corte ha detto deve essere volto anche ai fini di una politica di crescita per il Paese. Senza dubbio la lotta all'evasione va continuata ed è sempre più una delle azioni che occorre porre in essere. E questa è la Corte dei Conti. Poi l'altra cosa che fa discutere è invece il garante della privacy, Francesco Pizzetti, che dice: c'è una fase di emergenza dalla quale uscire più presto. Ma le nuove norme sulla trasparenza amministrativa nei controlli fiscali rappresentano strappi forti allo Stato di diritto. Bisogna uscire da queste norme al più presto, altrimenti lo spread fra democrazia italiana e democrazia occidentale crescerebbe. Siamo in presenza di strappi forti allo Stato di diritto e al concetto di cittadino che ne è alla radice. È proprio dei sudditi essere considerati dei potenziali marioli. È proprio dello Stato non democratico pensare che i suoi cittadini siano tutti possibili violatori delle leggi. Allora capiamoci, Pizzetti ha ragione nel dire che bisogna stare attenti a non violare le norme della privacy per quello che riguarda la lotta all'evasione, però deve anche ricordare che l'Italia dopo la Grecia ha il record di nero di evasione fiscale. Come la mettiamo, Pizzetti? Questo lo ricordiamo nel momento in cui lei parla dello spread fra democrazie italiane e democrazie occidentali? Va bene, parli anche dello spread tra evasione fiscale italiana e media dell'evasione nelle democrazie occidentali, perché i metodi di controllo incrociato in America esistono da decenni, ma non solo in America. Andiamo a vedere le pene nel resto d'Europa in caso di evasione fiscale? Non so. Altro tema caldo, il lavoro, la riforma del lavoro dopo le tensioni ieri sia di sindacati che di Confindustria. Oggi Rete Imprese per l'Italia, quindi Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, poco fa ha detto il presidente Marco Venturi, se la riforma non cambia con un aggravio di costi previsto dalla riforma del lavoro presentata, un aggravio di costi per le imprese, noi non la firmiamo. E ancora questa mattina il ministro Fornero ha detto: mi impegno a trovare le risorse più adeguate per fare in modo che il meccanismo degli ammortizzatori di mercato del lavoro funzionino bene, ma il governo non è disponibile a mettere una paccata di miliardi, così ha detto Fornero di fronte a un sindacato che dice no. Sapete che il tema lì riguarda i soldi da mettere sul piatto per passare dall'attuale sistema a un sistema in cui vi sarà solo la cassa integrazione ordinaria e poi però un sussidio di disoccupazione. Oggi il presidente dell'INPS, sempre al microfono la nostra Alessandra Schepisi, mi riferisco a Antonio Mastropasqua, ha anche detto però attenzione, ci sono tali e tante storture nel mercato del lavoro italiano che una riforma è ineludibile. Il mio giudizio è naturalmente innanzitutto ottimistico, perché il grande impegno del governo, del ministro Fornero, delle parti sociali, ieri è stato il sesto tavolo, poi è chiaro che esistono nel frattempo tanti incontri, in questa settimana il ministro Fornero avrà anche degli incontri cosiddetti bilaterali per iniziare nuove discussioni su ulteriori argomenti. Il mio giudizio è che, come ha detto sempre il ministro, alla riforma delle pensioni non può che seguire una riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali. Era circolata questa ipotesi per quanto riguarda le risorse da destinare alla riforma degli ammortizzatori sociali, si parlava di 2 miliardi derivanti dai risparmi dalla riforma delle pensioni. Ma sì, girano tante ipotesi e sicuramente delle risorse ce ne sarà bisogno. Il governo è tutto insieme, perché ovviamente non è un problema del ministro Fornero, ma è un problema del governo, fare una buona riforma, fare un'ottima riforma e con anche le risorse necessarie. In questi giorni sicuramente il dibattito tra il governo e le parti sociali e all'interno del governo per reperire, per delineare quello che possono essere le esigenze, credo che avrà la giusta soddisfazione. Sarà possibile, come ha detto ieri il ministro Fornero, arrivare a una disoccupazione del 4-5% attraverso questa riforma del mercato del lavoro? Ma io credo che quello che ha detto il ministro Fornero è quello che tutti noi italiani non possiamo che auspicare, ovvero una diminuzione, addirittura questa percentuale sarebbe un dimezzamento dell'attuale tasso di disoccupazione. Ognuno di noi tende e lavora per questo. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Sì, torna la crisi degli altri, nel caso specifico i consiglieri comunali, ma non solo. Allora, dobbiamo rendere atto al quotidiano La Repubblica, che ha monitorato per quasi due mesi, dal 17 gennaio al 7 marzo, l'andamento di 9 commissioni del Consiglio Comunale di Genova, dove a maggio si andrà alle urne. Ecco, così i genovesi possono farsi anche un'idea. Allora, c'è una nuova tecnica, chiamiamola così, la sveltina nella presenza dei consiglieri comunali. Perché? Perché per beccare il gettone di presenza alcuni si sono specializzati nella toccata e fuga. Il capogruppo della Lega Nord, Alessio Piana, complimenti, no, è uscito 9 volte su 18 ancora prima che scatti la mezz'ora di decenza. Mezz'ora di decenza vuol dire che almeno mezz'ora si presume che tu resti se poi becchi il gettone. Una volta è rimasto 8 minuti, due volte 10 minuti, una volta 15, una 16. Ma complimenti anche alla coppia di consiglieri dell'Italia dei Valori, Andrea Proto, è rimasto una volta 5 minuti, una volta 3 e una volta 10 minuti in 13 riunioni, mentre Francesco De Benedictis è il più veloce, il 1 febbraio 5 minuti scarsi, ma se n'è andato repentinamente altre 7 volte. Poi Aldo Praticò del PDL si è presentato alla seduta della commissione alle 14.48 e è uscito alle 14.49, un mito. Un minuto dopo non si è nemmeno tolto il casco della moto, come faceva? Pensate che per quel minuto di lavoro, come gli altri, il consigliere comunale Aldo Praticò riceverà a fine mese 97 euro per un minuto. Not bad, non male. Il 16 febbraio praticò del mestiere, perché il 16 febbraio ha fatto la stessa cosa, il 15 febbraio 2 minuti, il 23 gennaio 3 minuti, il 18 gennaio 4 minuti. Insomma, nelle ultime 18 commissioni consiliari praticò per 9 volte, è arrivato primo nel senso di come minor durata, 6 minuti, 8 minuti, una volta addirittura 15 minuti. Poi abbiamo il consigliere Vincenzo Vacalebre dell'UDC, alla vigilia di San Valentino, sempre in commissione del Comune di Genova, è rimasto in aula 180 secondi e 190 secondi di nuovo Andrea Proto dell'Italia dei Valori. Segnatevi i nomi genovesi, così poi andate le una a maggio e li votate, oppure non li votate. Noi ci trasferiamo su temi apparentemente più seri, ossia il vertice dell'Ecofin, che è seguito oggi all'incontro ieri sera dell'Eurogruppo. 349-238-6666 per i vostri sms. Ancora, vedo molti messaggi sul tema di Pizzetti. A parte che Pizzetti, vabbè, si poteva intervenire su tante cose, a mio avviso. Scopriamo che si è risvegliato oggi, caro garante della privacy. Andiamo a controllare quanto guadagna il garante della privacy nella lista famosa. Così no, giusto per dire. No, perché scoprire che siamo in presenza di uno spread fra democrazia italiana e democrazie occidentali, perché le nuove norme sulla trasparenza amministrativa nei controlli fiscali rappresentano strappi forti allo Stato di diritto, senza ricordare che l'Italia ha il record di evasione fiscale dopo la Grecia, è un errore. Altra cosa è fare, come chiedono molti di voi, sono d'accordo, chiedere che la spesa pubblica costi meno, che costi di meno la politica, dal Presidente della Repubblica in giù, e che vengano ridotte le tasse su chi le paga, cioè sui lavoratori dipendenti e su tutti quelli che le pagano, ok? Questa è un'altra cosa, ma dire che siccome si fanno i controlli incrociati si viola la privacy in un paese in cui continuiamo a scoprire evasori totali con ville, case, auto di lusso, ma per favore. E infatti c'è chi dice lei è un Torquemada. Sì, in effetti, guarda, abbiamo 200 miliardi di euro di evasione di nero perché ci sono i Torquemada in questo paese. Va bene. Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buonasera, Beda. Buonasera. Con te parliamo di temi internazionali. Allora, oggi l'Unione Europea ha dato il via libera al primo esborso. Anche se la prima tranche dovrà essere fatta entro il 20 marzo alla Grecia. Sentiamo Olli Rehn, commissario agli affari economico monetari, nella conferenza stampa al termine del vertice Ecofin. Despite the fact that Europe is going through a mild recession, nonostante il fatto che l'Europa stia attraversando una lieve recessione, nelle ultime settimane abbiamo visto crescenti segnali di stabilizzazione e un ritorno di fiducia sui mercati. In questa fase è essenziale completare la risposta alla crisi e su questo versante una pietra miliare è costituita dalle misure di difesa, i firewall. Le discussioni di ieri mi rendono fiducioso che verrà raggiunto un accordo per fine mese sui sistemi di rafforzamento finanziario. La nostra risposta alla crisi oggi è più forte dopo il successo dell'operazione di swap dei titoli greci, che dovrebbe portare il debito del paese sotto il 120% del PIL entro il 2020. Con il secondo programma di aiuti stiamo aiutando la Grecia a riportare i propri conti pubblici su una direzione sostenibile. Inoltre sottolineiamo l'importanza delle riforme economiche che possono agevolare sia la crescita che l'occupazione in Grecia. Allora, Beda Romano, si Torquemada chi era, avete ragione, era il capo della Santa Inquisizione della Chiesa Cattolica, uno dei più feroci. Allora, dire che qua questo è un paese di Torquemada con l'evasione che abbiamo, va bene, ma siamo abituati anche altro. Allora, Beda Romano, veniamo invece ai temi europei. Al di là dello sblocco degli aiuti per la Grecia, mi sembra che il punto adesso sia l'Ungheria, cioè i ministri delle finanze dell'Unione Europea hanno bloccato un mezzo miliardo di euro di fondi europei all'Ungheria perché deve correggere il suo deficit eccessivo, ma hanno anche fatto capire alla Spagna, che ha detto in maniera unilaterale che non riuscirà a rispettare i temi del deficit, che non ci saranno trattamenti diversi, ho capito bene? Sono due paesi in situazione completamente diversa, paradossalmente. L'Ungheria non ha risanato i conti pubblici negli ultimi anni ed ha un deficit superiore al 3%, nonostante avesse preso l'impegno di ridurre il deficit sotto a questo livello nel 2011. E quindi un mese fa la Commissione ha deciso di applicare una nuova norma del patto di stabilità e di chiedere al Consiglio di congelare 495 milioni di euro di fondi strutturali che dovrebbero essere versati al paese dell'Europa centro-orientale a gennaio dell'anno prossimo. La Spagna in realtà si trova in una situazione diversa. La Spagna deve ridurre il proprio deficit sotto il 3% nel 2013. Non ha mai mancato a questa promessa, l'ha ribadita anche recentemente. La Spagna però ha chiesto maggiori margini di manovra per quanto riguarda il 2012. L'obiettivo preso con la Commissione era di ridurre il deficit al 4,4% nel 2012, aveva rivisto la stima al 5,8%. Ieri sera ha trovato un compromesso con i ministri finanziari dell'Eurogruppo per portare il deficit quest'anno al 5,3%, mantenendo l'obiettivo del 3% nel 2013. Quindi i due paesi sono in una situazione leggermente diversa ed ecco perché oggi l'Ungheria è stata oggetto di un voto nel Consiglio che porterà da qui alla fine dell'anno al congelamento dei fondi strutturali se il paese non introduce quelle misure necessarie per risanare i conti pubblici. Più freddezza mi sembra invece che si è messa sulla cosiddetta Tobin Tax, ossia la tassa sulle transazioni finanziarie, quella che ha portato alla rottura della Gran Bretagna. A suo tempo il ministro delle finanze tedesco, il Falco, Wolfgang Schäuble, ha detto: senza un'intesa entro la presidenza danese dovremmo trovare alternative, perché non decidere sarebbe un disastro. Mario Monti ha detto: sì, importante la Tobin Tax, ma bisogna valutare anche l'impatto sul costo del capitale per le imprese, le famiglie e il settore pubblico. Beh, danese, salutarti, visto che poi nella seconda ora parleremo anche della Germania, è iniziata infatti la visita di Angela, l'incontro tra Angela Merkel e Mario Monti. Mi dai la tua opinione sulla posizione tedesca, visto che tu per anni sei stato il corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte per la BCE, ma non solo. Cioè, oggi su Sole 24 Ore Adriana Ceretelli sostiene: attenzione a fare la moglie di Cesare, devi essere proprio la più impeccabile. Stiamo parlando della Germania. Della Germania, certo. Sì. Io credo che la Germania abbia bisogno di regole, fondamentalmente, e in assenza di regole si trova enormemente in difficoltà. Ed ecco perché in questi mesi ha bloccato varie operazioni europee per cercare di salvare vari paesi, a cominciare dalla Grecia. Io credo che si è parlato molto di obbligazioni europee in passato e credo che la Germania sia favorevole a una graduale mutualizzazione dei debiti pubblici nazionali, ma credo che abbia bisogno in cambio di un trasferimento della sovranità nazionale alle grandi organizzazioni internazionali europee, in particolare la Commissione, e se non la Commissione almeno la Corte di Giustizia. La Germania ha proposto questa soluzione alla fine dell'anno scorso, quando ha cominciato a negoziare il Fiscal Compact, e aveva proposto il controllo assoluto dei conti pubblici nazionali da parte della Corte di Giustizia. In quell'occasione la posizione tedesca era stata bocciata dalla Francia. La Francia aveva bloccato questa possibilità, sostenendo che i conti pubblici dovevano rimanere compito dei governi nazionali. Quindi, per rispondere alla domanda, io credo che la Germania sia in realtà molto più europeista di quanto non sembri. Però non si fida dei suoi partner così tanto, diciamo. Non si fida dei suoi partner. Beh, nel caso greco non ha nemmeno tutti i torti, vorrebbe che la certificazione, chiamiamola così, dell'andamento dei conti pubblici fosse delegata non più ai governi nazionali, che poi sono sensibili alla campagna elettorale, alla campagna politica, ai favori degli amici e quant'altro, ma a organismi extranazionali, sovranazionali, la Commissione Europea, la Corte di Giustizia e quant'altro. Grazie a Beda Romano in collegamento con lui da Bruxelles, il metro, la pubblicità, poi la borsa e gli altri temi, a partire dalla visita di Angela Merkel a Roma, ma anche e soprattutto dalla benzina a nuovi record. 349-238-6666 per gli sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, adesso passiamo alla borsa, però vorrei concludere su Pizzetti, il quale fa benissimo a ricordare che le norme per il controllo dell'evasione nel paese che ha record di evasione in Europa dopo la Grecia rischiano di essere strappi forti allo Stato di diritto, si dimentica di ricordare altro Pizzetti, però visto che me l'avete solleticato, l'autority sulla privacy, di cui io non ricordo, ma chiedo venia a Pizzetti, grandi interventi in questo periodo su altri temi, non so, vedo che all'estero si appassionano molto ai temi che riguardano i social network, a quello che fanno le informazioni che diamo a Facebook e altri siti, cioè tutte cose molto europee, no? Pizzetti si occupa, diciamo, dello spread fra democrazie italiane e occidentali. Faccio notare che Francesco Pizzetti guadagna 290.000 euro, non è poco, non è che non debba guadagnare il garante della privacy, però sono 290.000 euro, forse tanto, no? I tre membri del collegio che compongono l'autorità della privacy guadagnano 190.000 euro a testa. Allora, a me 290 più 190 per 3, qui stiamo sfiorando il milione di euro per il collegio, per la garante della privacy. Su. Allora, Pizzetti, bello anche se lei ci facesse una dichiarazione dicendo, insomma, bisogna ritoccare anche i nostri stipendi. Non lo so, perché dire semplicemente che queste norme vanno a violare la privacy quando sappiamo che qui la gente, e non parlo di chi evade poco, del commerciante che fa un po' di nero per stare dentro, stiamo parlando di quello che vediamo tutti i giorni, mi sembra veramente un Pizzetti marziano. E allora a Pizzetti va il nostro eroe. Piacere, Luigi delle bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere. Ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Sono un eroe. Poi c'è chi dice, lei sta esaltando il fascismo dello Stato. Sì, il fascismo dello Stato, è vero, è vero, è vero. È questo il fascismo. Lo Stato va a violare e comprimere i diritti e le libertà personali con tutti i suoi cittadini. Ma cosa avrà fatto Monti sul fronte dell'evasione fiscale, oltre che fare gli accertamenti? In America, dove vai dentro, allora lì cos'è? Nazismo. Quando evadi vai dentro, eh? Ciò non toglie che debba essere ridotta la spesa pubblica, essere spesa meno, l'abbiamo spiegato in decine di puntate. L'Italia non ha una spesa pubblica più alta in percentuale al PIL rispetto agli altri paesi, a maggior ragione in sanità e istruzioni. La spesa è simile in percentuale al PIL, il problema è che è spesa male, è spesa per clientele, per sprechi, per mafie, per tangenti, ma non è l'ammontare che è complessivamente più alto sia per istruzione che per sanità, è ridotte le tasse a chi le tasse le paga e quindi i lavoratori. Eleonora Micheli, Radio Colli sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Più 2% Milano nel finale, più 1,70 Parigi, più 1,40 Francoforte, più 1,11 Londra, più 0,80 Francoforte. Tozzi ha fatto il botto, più 7%. I conti di oggi. Eh sì, sono stati proprio i conti annunciati oggi dall'azienda di moda che ha terminato appunto il 2011 con un utile netto di 135 milioni, il rialzo del 23,8%. Anche i ricavi sono saliti di oltre a doppia cifra, di oltre il 13%, ma questo era già noto. E soprattutto Diego Della Valle, il patron dell'azienda, ha detto che il 2012 dovrebbe essere ancora un anno di crescita. Ovviamente tutte buone notizie per il titolo, che non a caso ha registrato questo progresso di oltre il 7%. Eh sì, è giorni che vediamo i titoli muoversi soprattutto sui conti, vale anche per Pirelli, ottimi conti ieri, molto bene il titolo anche ieri e oggi un altro 6,86%, vicino ai 9 euro per azione. Eh sì, infatti anche in questo caso è l'effetto conti che, come hai detto tu, sono stati annunciati ieri, ma ancora oggi si è continuato a festeggiare, peraltro convincono molto anche le previsioni per l'esercizio in corso, che nonostante l'approssimarsi della recessione in Europa, anzi alcuni paesi sono già in recessione, Pirelli ha dato previsioni di conti in crescita. Adesso c'è il traffico, poi gli altri titoli, a chi chiede ma lei quanto guadagna, non si preoccupi, mi tassa al sole 24 ore, in busta paga, traffico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, ogni volta che si tocca il tema dell'evasione arrivano insulti. Vabbè, noi restiamo in tema invece di borsa, una sola precisazione, lo stipendio di Pizzetti l'ho dato e quello dei consiglieri dell'autorità, intanto perché Monti con un'opera meritoria l'ha fatti pubblicare, ma perché lui è pagato da tutti noi. A me lo stipendio di un privato non interessa, sarà un problema con l'azienda, tanto, poco, la trattenuta c'è alla fonte, scusatemi. Ma il problema ho fatto solo notare che il garante della privacy, di cui pochissimo sentiamo la voce, tranne oggi che ha detto che qua stiamo rasentandolo la distanza tra gli stati occidentali e le democrazie italiane, apocalittica, guadagna quasi 300.000 euro lordi e poi i tre componenti del collegio dell'autority altri 193.000 euro a testa, fanno quasi 1 milione di euro per l'autorità indipendente della privacy. Tanto? Boh, secondo me sì, visto che vogliamo risparmiare partiamo anche da lì, tutto qua, si può garantire la privacy anche a un costo più basso secondo me. Detto ciò, Eleonora Micheli, Finmeccanica più 6,30, Buzzi Unicem più 6,30, tutta positiva la borsa oggi. Eh sì, ci sono tutta positiva, ci sono titoli inoltre che si sono messi particolarmente in evidenza, Finmeccanica ha fatto oltre il 6%, continua a essere sospinta dall'annuncio dei giorni scorsi di aver vinto commesse per oltre 173 milioni, Buzzi invece è stato anche in questo caso l'effetto conti, non di Buzzi ma della controllata tedesca di Ikerhof, conti ovviamente in crescita. Ancora, Banco Popolare più 5%, bene le banche oggi, in realtà anche per l'asta dei bot italiani. Popolare Emilia Romagna più 4,5%, Intesa più 4%, Unicredit più 3,90%, Pop Milano più 2,40%. Lo spread, volete sapere, avete ragione, non l'ho dato, è intorno ai 310, era sceso anche sotto i 310 punti, 308 a un certo momento. Resta inferiore a quello spagnolo che viaggia a 333 sull'obbligazione tedesca. I rendimenti dei bot sono andati in netto calo e questa è una buona notizia, con forte domanda. Mi riferisco soprattutto a quello annuale, all'1,4% il rendimento offerto contro il 2,2% di febbraio, vuol dire risparmiare lo 0,8% di interessi per l'Italia. La domanda è stata di 11 miliardi, quasi 12 contro gli 8 miliardi e mezzo offerti. Torniamo invece alla borsa, Eleonora, perché se su Parmalat e Monte dei Paschi, Parmalat -1,1%, ci sono un po' di realizzi, Monte dei Paschi è rimasta al palo. Eh sì, -0,4%, ha sempre fatto peggio rispetto alle altre. Non c'è effetto profumo borse. Qua. Come? Non c'è l'effetto profumo. No, non c'è l'effetto profumo, anche perché per adesso non è chiaro se sarà profumo il nuovo presidente del Monte dei Paschi. Soprattutto c'è l'effetto fondazione che deve vendere fino al 15% del capitale. Non si sa bene ancora chi, ci sono state ancora oggi riunioni a Siena, soprattutto in fondazione. E poi c'è un nodo, nel senso che la fondazione deve vendere fino al 15% del capitale di MPS, ma ancora deve avere l'ok da parte di due banche creditrici, vale a dire Credit Suisse e Mediobanca. Insomma, una vicenda un po' intricata che ovviamente ha tirato in giù le azioni dello 0,4%, anche se stanno a 0,37 euro, un livello ben superiore a quello di un mesetto fa che era molto più basso. Eleonora, non ci lasciare perché vorrei chiudere con te con Autogrill e Fondiere Assai, poi passare a Angela Merkel e infine al prezzo della benzina con i gestori di pompe di carburanti che dicono attenzione, le compagnie petrolifere fanno le furbe. 349-238-6666 per i vostri sms. 18 e 8 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, concludiamo l'approfondimento di borsa e lo vorrei concludere con Autogrill, altro titolo che oggi è cresciuto moltissimo, Eleonora, più 4,70%, e invece poi anche con Fondiaria, sai, perché di nuovo sotto i riflettori. Sì, Autogrill, ricordiamo innanzitutto che nelle scorse settimane i titoli avevano registrato un andamento debole, anche soprattutto dopo le indicazioni fornite sul 2012, poco esaltante o giudicate tali dagli analisti. E oggi invece appunto il titolo è andato bene, visto che in Gran Bretagna sono stati resi noti i dati sull'incremento dei passeggeri negli aeroporti del 2,5% nel mese di febbraio. Ricordiamo anche che Autogrill è molto esposta negli aeroporti della Gran Bretagna, soprattutto di Heathrow a Londra, quindi questo ovviamente è una buona notizia per i conti dell'azienda. E per quanto riguarda invece Fondiaria Sai, ovviamente rimane ancora sotto i riflettori, i titoli sono saliti del 2,9%, ci si interroga sul futuro della compagnia, ma soprattutto si apre lo spiraglio sull'eventualità che l'aumento di capitale, di cui finora si era parlato pari a 1,1 miliardi, possa essere di entità inferiore, visto che le condizioni di mercato sono migliorate, quindi anche diciamo i titoli ad esempio di Stato in pancia alla compagnia e via dicendo portano a un rasserenamento delle sue condizioni finanziarie, può darsi quindi che l'aumento di capitale sia un po' inferiore, questo è quanto pensa il mercato. Ovviamente i nodi da sciogliere sono ancora numerosi, il mercato attendista di sicuro continua a mantenere i riflettori puntati sia su Fondiaria Sai che su Premafin, che oggi è salita di 0,5 percentuale. E allora i migliori e peggiori in assoluto si chiamano B-Team più 23,4, Acque Potabili più 19,60, Banca Intermobiliare più 7,80 e poi la Tods di cui abbiamo detto, la Pirelli e anche la Camfin più 6,70. I peggiori Sintesi meno 11,90, Investimento e Sviluppo meno 90, Monriff meno 4,80, Elica meno 3,90%. Grazie Leonora Michele, Radio Corriere, Sole 24 Ore. Ancora vedo molti messaggi al 349-238-6666 sulle parole di Pizzetti, con cui abbiamo aperto il programma, il garante della privacy, ha detto attenzione con questi controlli fiscali sulla trasparenza amministrativa, ci sono strappi forti allo Stato di diritto e lo spread fra democrazia italiana e occidentale crescerebbe se si continua così. Abbiamo fatto solo presente che sarà tutto vero, ma questo è il paese che ha record dell'evasione fiscale in Europa dopo la Grecia, e siccome alcuni di voi ci hanno scritto ma insomma dica cosa fanno in America, perché non mi sembra che l'America non sia una democrazia, in America se non paghi le tasse vai in prigione fino a 5 anni e lì ci vai, le multe arrivano fino a $100,000, le false dichiarazioni sui rimborsi sono punite con 3 anni di galera, 3 anni se le beccati per esempio un divo hollywoodiano come Wesley Snipes, 3 anni per evasione fiscale, ma anche la regina degli alberghi di New York l'hanno arrestata anche se aveva 70 anni per evasione fiscale. Questo è la democrazia per eccellenza che piace tanto ad alcuni liberisti, prendetela tutta, punisce così gli evasori fiscali. Dopodiché a noi interessano i pensionati che stanno con 700-800 euro al mese, gli operai che vedono ridursi il potere d'acquisto, i piccoli imprenditori, gli artigiani, i commercianti che non ci stanno dentro negli studi di settore e in alcuni casi arrivano anche a scelte tragiche. Questi sono i nostri ascoltatori a cui facciamo riferimento. Di tutti gli altri, di quelli che dichiarano 18.000 euro e girano con macchine di lusso e che adesso magari le riconsegnano perché hanno pure dei controlli, ce ne faremo una ragione. Non gireranno più con la Porsche o con la Ferrari. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere, sono un eroe. Adriana Ceretelli, da Bruxelles, buonasera. Buonasera. Con te non parliamo di evasione fiscale, ma parliamo della Germania, perché mentre è in corso il vertice tra Angela Merkel e Mario Monti, pochissime notizie arrivate per ora, devo dire, tu hai scritto oggi in prima pagina sul Sole 24 Ore un commento in cui sostanzialmente dici alla Germania: attenzione, se sei come la moglie di Cesare, devi essere al di sopra di ogni sospetto. Dov'è che la Germania non si è comportata proprio come la moglie di Cesare, cioè non è stata la prima della classe su tutti i fronti? Beh, sicuramente se noi prendiamo le trattative per il salvataggio della Grecia, in un primo tempo una crisi che era sicuramente modesta rispetto all'entità dell'area euro, cioè un 2% del PIL dell'Eurozona, è diventata proprio in seguito ai tentennamenti, alle esitazioni e anche, se si vuole, a questa cultura punitiva della Germania, è stata trasformata nella crisi dell'area euro, e questa secondo me è sicuramente una responsabilità che bisogna fare, di cui bisogna far carico ai tedeschi. La seconda cosa è stata diciamo l'insistenza tedesca nel coinvolgere il settore privato delle banche nella ristrutturazione del debito, anche questo ha creato l'anello di congiunzione tra la crisi del debito, dell'insolvenza debitoria e la crisi finanziaria, e anche questo ha accentuato la crisi e il contagio dell'Eurozona. E infine, dopo aver fatto tutto ciò e dopo aver costretto i greci a una cura durissima di rigore e di austerità, si poteva, e con i greci che l'hanno accettata, si poteva sperare che almeno si concludessero gli accordi per quello che riguarda il fondo salva stati, cioè in sostanza la cintura di sicurezza che in futuro dovrà aiutare i paesi che dovessero trovarsi in crisi, e dall'altro lato che si facesse qualcosa per la crescita europea, visto che la Germania ha accumulato degli squilibri nella bilancia dei pagamenti e li accumula da anni, e tutto questo, diciamo, a tutto questo fa riscontro il deficit dei pagamenti invece nel resto dell'Europa. Quindi siccome proprio diciamo con il fiscal compact e con le nuove riforme del patto di stabilità si punta al riequilibrio non solo di bilancio ma anche macroeconomico, anche su questo piano la Germania dovrebbe fare la sua parte, cosa che invece per ora non fa. Quindi tutto questo per dire che quando si vuole insegnare la lezione agli altri bisogna essere decisamente, come dire, senza macchia, perché altrimenti quando si fa dell'opportunismo, diciamo, dettato dalla politica interna, perché le esitazioni tedesche nell'aumento del fondo salva stati eccetera, un po' perché si spera che naturalmente i programmi drastici di risanamento dei paesi in difficoltà rendano poi con i loro risultati inutile aumentare le risorse, ma dall'altra perché si sa anche che andare al Bundestag, cioè al Parlamento tedesco, e chiedendo un aumento delle risorse per il fondo comune, appunto, di garanzia per l'euro, questo porrebbe problemi al governo. Già l'abbiamo visto nell'ultimo voto, la Merkel ha perso un pezzetto della propria maggioranza, è evidente che non vuole rischiare, e quindi si ritrova con dei problemi analoghi a quelli della Grecia o di qualsiasi altro governo che non vuole rischiare di cadere o di essere più impopolare del dovuto, proprio varando misure di rigore direi quasi estremo. E in questo senso, appunto, la moglie di Cesare deve essere al di sopra di ogni sospetto. Allora, da questo punto di vista, Adriana, c'è un elemento. C'è chi dice sono stati tutti i paesi, tranne la Gran Bretagna, molto proni verso la Germania. La Francia non ha mai avuto il coraggio di rappresentare un'alternativa. Tu ti ritrovi nella descrizione di un Mario Monti troppo, diciamo, incline alla posizione tedesca, o l'Italia non poteva fare altro, e forse adesso che ha ripreso una carreggiata più sana nei conti pubblici e quant'altro può permettersi di alzare più la voce? Sicuramente Mario Monti culturalmente è sempre stato un cultore, mi si permette il gioco di parole, del modello tedesco, non è certo da oggi, lui ha sempre ammirato le virtù tedesche, ma le abbiamo ammirate sempre tutti le virtù tedesche, proprio perché meritavano di essere ammirate, perché era un paese che sicuramente tra quelli europei è quello che ha avuto il maggiore successo economico, la maggiore competitività anche su scala globale, quindi ha sicuramente molto da insegnare. Oggi Mario Monti può contare di più in Europa? Beh, certamente lui ha una credibilità personale, ha fatto anche delle cose, per cui ha certamente rilanciato l'immagine dell'Italia in Europa, diciamo che la nostra immagine si è in un qualche modo normalizzata, per cui ha sicuramente come dire, un buon patrimonio personale di credibilità, di sobrietà anche in Europa, perché conta anche questo, da mettere sul tavolo. Da qui a dire che naturalmente l'Italia si farà il famoso Merck-Monti al posto del Mercosì, eccetera, ecco, io lì andrei un attimo cauta, perché insomma, certo siamo sulla buona strada, ma credo che ne abbiamo ancora da correre prima di recuperare diciamo una solidità come paese dal punto di vista sia del risanamento finanziario, sia soprattutto del rilancio dell'economia, perché noi abbiamo molto perso il nostro potenziale di crescita, quindi dobbiamo fare molto per recuperare. Quindi, ma certamente, detto questo, l'Italia è un grande paese europeo in un'Europa che in questo momento non brilla per leadership, non brilla per crescita, non brilla per voglia di stare insieme, né per europeismo, che invece sarebbe necessario. Quindi diciamo che Monti ha sicuramente delle qualità che può mettere sul piatto della bilancia e può in un qualche modo aiutare l'Italia a riprendersi, e anche l'Europa in un certo qual modo, perché l'Europa che abbiamo visto in questa crisi greca è un'Europa assolutamente sfilacciata, divisa, un'Europa che non ha voglia di stare insieme, un'Europa, come dire, spaccata dagli egoismi nazionali sempre più evidenti. Ecco, avere una voce che magari fa ragionare e spieghi e ricordi quali sono i vantaggi dell'Europa per tutti, ecco, questo penso che sia una come dire, una voce del buon senso che può far sì che l'Italia in qualche modo rientri sulla scena, non da protagonista estrema, perché ancora è un po' prematuro, ma diciamo comunque a fare sentire il proprio peso, il proprio chiaro buon senso. Staremo a vedere che cosa uscirà poi da questo vertice Mario Monti e Angela Merkel. Io, come sanno i nostri ascoltatori, sono d'accordissimo con te su tutto, sul fatto che era giusto punire la Grecia, è stato sbagliato umiliarla, e che a fare i primi della classe bisogna stare molto molto attenti. Vedo che anche l'Olanda, altra prima della classe con la Germania, qualche problema sul mantenimento del rispetto degli accordi sul deficit ce l'ha. Grazie Adriana Ceretelli. Il traffico e poi i benzinai. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, la benzina, dicevamo, perché il nuovo record ha toccato a 1,874 euro al litro, un nuovo massimo storico, con punte massime sul territorio a 1,926 euro e 1,800 euro per il diesel. Visto che ieri appunto facciamo il calcolo della spesa alimentare per tabacchi e bevande, che secondo il centro studi di Banca Intesa San Paolo è tornata al livello del 1980, beh, allora però un litro di super costava l'equivalente di 1,54 euro di oggi, e il gasolio, anche se poi c'era il superbollo, costava quasi un terzo, cioè 69 centesimi di oggi. Però i benzinai lamentano una cosa, lamentano compagnie petrolifere che fanno i furbetti, fermo restando che l'Unione Petrolifera ha spiegato come le accise sulla benzina, le tasse, siano arrivate a 20 centesimi quest'anno, in un anno, scusatemi, e 23 sul gasolio. Vorrei capire qual è l'atteggiamento da furbo delle compagnie petrolifere con il presidente della FEGICA, Federazione Gestori Impianti Affini, 6.000 gestori di pompe di benzina, Roberto De Vincenzo. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, qual è lo specchietto per le allodole? Ci faccia capire. Lo specchietto per le allodole è che è vero, l'imposta di fabbricazione, l'accisa e l'IVA sono aumentati 20 centesimi, ma le compagnie petrolifere non dicono tutta la verità rispetto alle dotte spiegazioni che danno del prezzo internazionale, cioè il riferimento al Platts. Esatto. Ora, il Platts è un valore che viene pubblicizzato da una rivista, peraltro ho sentito un pezzetto della vostra conversazione precedente,